porta attaccata. Spinotto. Sotto al microfono all'apparecchio. Sotto c'è il vitino, metti un cavetto in massa lì e poi ora vite che c'è al fianco l'apparecchio basso. Adesso provo. Se ho già un video che fate così già, perché mi ha attaccata una alla carrozzina all'apparecchio e l'altra alla carrozzina del microfono. Com'era l'altro? Se lo dovessi ricordare, com'era l'altro? K. Quanto hai? Un attimino. Fallo. Quello del connettore è stanco. Sì, dello spinato l'ho staccato. Qualche fatta ce l'hai? Un attimino che... Per cosa è caccia al Peter, me ce la valida. Nuova? È strano, con la massa non te lo dovrebbe fare. Ma l'alternatore, l'alimentatore vicino ce l'hai. Tu? In terra, cavoli. Dell'antenna, lontano è dall'alimentatore. Sì, è lontano. Ma stacca, prova a staccarmelo. Che cosa? Staccato hai. Che cosa? Il cavo di massa, prova a staccarlo dal baracchino. Aspetta un attimo. Adesso è staccato. Prova. 1, 2, 1, 2. Non passaggio più lungo, se no non lo capisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attaccato. Quanto? Saranno 5 centimetri. Sono parato. Lontano appena appena. Adesso è allontanato. Lascialo così, perfetto. Va bene. Dopo c'hai appena soltanto l'alternato. Meglio così adesso. Dopo lascia tutto così, fare che? Dopo Rogero. Fuori cosa fa che adesso? Lascia la portata bianca senza parlare. Ehi, appena levasserà l'alimentatore. Io ho tornata, ma è percettibile, non c'è più né cosa, né fischio, eccetera. La sua voce è sana e pulita. Ma lei non è come il filo di massa, era? Sì, sicuramente già me ne stai facendo contro massa, perché alcune volte non ci vuole la massa, alcune volte sì. Alcune volte invece mi fa contro. Ah, K, volevo staccare del tutto la massa. Del tutto, staccato del tutto, l'apparato, staccare del tutto. Cioè quel cavetto che avevi collegato da sotto al corpo, staccare del tutto. Ecco, staccato del tutto. K, il correttore l'ha entrato bene, ha avvitato bene. Adesso l'ho avvitato bene. Fai un attimino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va benissimo così, dai, lascialo così che va bene. K. Quello appena di alternato si sente, ma sicuramente quello vicino al fermare anch'io, si sta facendo, forse ci vuole qualche isolatore, ma è appena appena percettibile, dai. Ma leggera, dai. Leggera, leggera. K. Ma quando parlo E tu dove sei a casa? Sì, io. Giuseppe, ben ritratto. Buonasera Pacchetto, ben sentito e cordialità, KK. Con chi siamo stasera? Con chi siamo? Siamo con Antonio Combo e Vela che sta rientrando, Vela in macchina. K di positivo, buonasera a Bombo e buonasera a te Vela, cordialità e una stretta di mano, Cava Cava. Prec. Sicuramente se ne è sceso adesso Giuseppe, avanti il break. Buonasera a tutti, doppio rumore. Cappa, buonasera Gianni, buonasera, ben ritratto. Buonasera Gianni, ben sentito e cordialità, Cappa. Cappa, buonasera anche a te Giuseppe e anche a te Falchetto, cordialità, dai. E allora ragazzi, mi stavo cercando, ho detto ma dove sono finiti questi qua? Dove ci stavo cercando? Probabilmente c'avevo i canali di sotto, capito? Invece che siete nei canali normali, erano i canali di sotto. Ah, gappa gappa. Vabbè dai, riprendi Giuseppe, riprendi, fai il controllo al tuo Falchetto. Cappa Falchetti, il controllo te lo faccio subito. Di Santiago sei una bomba, e però se vieni fuori, se vieni fuori da quella botola ti dico grazie. Botola. E cappa, cappa, cappa. E la radio ce l'hai tu, papà, che sei basso. Basso. Cappa. Vedo un po' adesso. Fai un passaggio. 1, 2, 3, 4. No, uguale a prima. Uguale a prima. Bravo. Hai un pochino d'alternata sotto come mandela portante, però hai una radio che passa e nasina, molto nasina. E sembra che stai parlando, che ne so, da sotto una botola mi andò. Ah, addirittura. Perlomeno qui nella mia postazione ti sento così. E proviamo a far fare un giro, vediamo un po' se il doppio room ti sente meglio di me. Oh, probabile sia il mio apparecchio, e attenzione. Come ti è, scusa? Ma tu, io non la sento questa voce nasina, dai. Perlomeno qua nel mio apparecchio non si sente. Prova a fare un passaggio lungo che controlliamo, ma non mi sembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma a me mi sembra normale, non è così nasina. Oh, forse anche tipo in colonnina, Giuseppe, tante volte lo fa, non apparecchia l'altro, cambia. Però ho abituato a sentire la voce d'Antonio, bella squillante, e qui dentro stasera è proprio bella, e io la sento battata, e non so manco come spiegarmi, mannaggia, e la sento più bassa, non è la voce di Falchetto quella che entrava nel mio apparecchio qui, bella piena, hai capito, squillante. No, io non lo sento così, come stai dicendo tu Giuseppe, al capito. Assolutamente. Aspetta un attimino, Antonio, dammi 2 minuti che cambio apparecchio, vai. Cappa, aspetta, ma siamo pronti, no? Vedi un po' come va adesso. Non sai cosa c'è, probabilmente tu stai usando un microfono normale adesso, così è. No. Lo sto usando l'amplificato. No, sto usando l'MB più 5. Non lo so. A quanto ce l'hai? Metà. Metti la 10, proviamo. Adesso è 10. Adesso va meglio. I toni come ce li hai? I toni sono a metà. Però c'è questo rumore sottofondo, c'è ragione Giuseppe, questa alternata. Come mai? No, mi metto quella di... ho tolto quel filo di massa che c'era, e diceva va bene. Ah, la radio così è bellissima. ma era troppo bassa, ma adesso va bene. Il problema è l'alternata adesso. Adesso, ma anche adesso siete alternata? Ehi, prova a premere senza parlare. Portante utile. Ehi, a cosa sta facendo questa alternata qua? Strana. Guarda se lo parte adesso. E adesso ti dico che piace anche la trombetta. E vedete, la nota della parata, vedete, guida adesso portante butta. Adesso molto meno, probabilmente ci ha visto la parte da per quello che ne scappa. Adesso l'ho staccato. Paga. Ma se sente ancora, senti un po'. Scusa un attimino, che sto rispondendo a mio figlio. Scappa. Vedi un po', Giuseppe, che metto portante muta a vedere se senti quello che riesco ancora. Hai l'alternata sotto, Anto, si sente, non è forte, però si sente. E poco fa avevi il fischio quando sicuramente l'hai avvicinata. Vedi un po' adesso. Sei sempre alternato. Ok, ma non è questione di massa, guarda a vedere se è troppo vicino all'apparecchio, perché se il microfono è troppo vicino sopra l'apparecchio è quello il problema. Adesso sono staccato 45, quasi 50 centimetri, vedi un po'. Adesso fammi. Allora ci avevo attaccato troppo all'apparecchio, dai. Che come segnale è una bomba, che mi devo abituare adesso al tono di voce di Falchetto, tutto lì. E ha cambiato microfono probabilmente. Falche nel 2005 comunque ha quel tono lì, che poi si possono sempre regolare i toni, mettili a due un attimo. Vabbè. Però fanno un passaggio lungo. Comincia da 1 e di 1, 2, 3, 4, così quando corre il migliore. 1, 2, 3, 4. Arriva fino a 10. Ah, devo arrivare fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A me mi sembra 10, sembra il migliore. Prova a parlare, a fare un passaggio lungo adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No, te la fa troppo cuffa, prova a abbassare. Vedi un po' adesso. Sempre il passaggio lungo devi fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, più basso. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi sa che questo è il tono giusto, vero Giuseppe? Vedi un po', tenta a me. Fai un passaggio qualche che mi hai trovato un attimino distratto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma sì, dai. Non è malvagia come radio. Si è sollevata di parecchio qui, eh. Va meglio così, lo lascio così? Eh sì, lascialo così, perlomeno per, o poi ognuno nella sua stazione, chi ti sente in una maniera e chi nell'altra. Io ad esempio poco fa stavo facendo fatica a riconoscerti, in effetti ti stavo ascoltando, però ho detto, ma non lo so se è Falchetto o chi è, devo essere sincero. Kappa, comunque è migliorato adesso, dai. Kappa, adesso stai cominciando a essere tu. Ce l'avevo troppo attaccato all'apparato, capito? Forse è per quello che ne scava un po'. Cava, cava. Avanti Antonio, senti un pochino anche tu come senti il buon falchetto. Lo sento meglio. Stavo dicendo, da un apparecchio all'altro ha cambiato. Ma dici a me? No. Ma io adesso provo a attaccare l'altro, provo a attaccare il 48 e provo a sentirlo sul 48, perché differenza di cosa non è che ne sento tra una parata e l'altro, Antonio, hai capito? Che proprio stavo facendo fatica a capire chi fosse poco fa che stava modulando. Io già l'ho riconosciuto subito che era lui. Cappa, io bisogna che mi abitui a questa modulazione qua, perché devo essere sincero, poco fa è proprio zero, zero, zero, zero. Falché, ma non avevi nemmeno 300? No. Come no? Cioè, davvero, ma si è rotto. E cosa si è rotto? Non mettere scelta. Sì, io quasi molto male gli ho passato la regolazione dell'eco, questa roba qua. E beh, li metti la regolazione fissa dell'eco, lo regoli dall'interno. Allora, lo avevo messo io, capito, e niente. Messo da una parte, non serve più, dai, non se ne faceva più niente. Anto? Sì? Fatto la stessa fine di Sky? Perfetto, la stessa. K di positivo, quando una cosa non rende... Non mi è conservato manco la capsula, no? No, già si è andato tutto. Falchetto, la capsula me la potevi lasciare, me la mettevo io al microfono. No, già si è andato tutto già. Perso la pazienza. Sì, ha rotto la scatola, che bella cosa ci aveva fatto, va a fare Napoli. Ma perché cosa ti stava facendo? Che problemi ti stava dando? Ah, tutto casino, capo che non andava bene, saldatura fatta la sgambition e via dicendo, la sbiazza ce l'ha fatta tutto. Poi sono andato a regolare il mercato dell'eco e mi si è rotto anche la farina della regolazione. Allora, ho preso anche la parte della spazzatura. Il trimmer bastava cambiarlo. Tu hai preso la lampada, si poteva recuperare, bastava cambiare il trimmer, costava una cazzata. Anzi, li mettevamo quello più forte e piaceva ancora più forte. Ehi, vabbè, fascista. Oh Gianni? Eia. Morto un microfono, se ne fa un altro. DM1000 per falchetto va benissimo. Cappa, con quell'antenna esce che una schioppettata. Vai Gabba. Io ti do tre anche io, perché devo finire di uno solo. Cava Gabba. Avanti chi stava discutendo, Cappa. Forse è propagazione. Sta cominciando ad aprirsi, Dopo ce ne stufferemo anche, non ti lascia manco modulare così in faccia. K di positivo, la scusa buona per spegnere tutto. E andarsene al mare. Ma non si è aperta bene ancora, è poco. Ma stamattina io ero a Olbia Radio Criminal, Roberto ha colpito ancora. Ma era in Sardegna. Però qua Sassari ancora non si è aperta bene, magari a Olbia. Cappa, ma c'era un casino, tu dovevi sentire a chi faceva prima ad aprire la portante, infatti ha detto, ma avrà biglietti dove non ci tocca sole tutti quanti, ho preso e ho cambiato canale. Prego. Avanti. Allora, migliorata abbiamo peggiorato. Bella falchetto, questo è il falchetto che conosco io, mannaggia e pesci. Eccolo qui, questa è la tua modulazione, questo è il falchetto con Radio 5 e Santiago a fondo scala, K. Se volevo dire una cosa a Giuseppe, lì si fanno le gare, lo sa. Ehi K, però io sono stato il primo, eh. No, quando è così, che non ti fanno entrare. Se lo fanno andare, a me mi sentono subito, perché c'è un motivo. Lì bisogna essere prepotenti quando ci sono modulazioni del genere, capito? K, no, ma io sono stato il primo, ho spento tutto e mi ho acceso la radio, sai come se stava bene? Sì, K, ancora in luta Giuseppe, stasera fa la prepotenza perché vinci tu. Guarda il camion, un pochettino, a meno che non piatti quel cosettino là, allora giga, la questione cambia, come italiano dice. No, lì è uno sopra l'altro, devi essere la legge del più forte. Sì, legge del più forte, c'era un macello stamattina, uno che parlava, l'altro che diceva, l'altro che continuava a dire, c'era tutto un fischio stamattina, sovramodulandosi uno con l'altro, era tutto un groviglio di rumori. No, non avevi mai sentito una cosa del genere. Sì, l'ho sentita già diverse volte, però non me ne preoccupo mi, Antù, assolutamente, quando è l'ora guardo, giro stazione e mi ascolto il radiogiornale, e come finisce quella vai su RDS, finito RDS c'è Radio Internazionale, quando mi stufa quello prendo e spengo tutto, casa e me la canto io, ce ne sono tante di cose da fare. Io mi sta sempre così, attenzione cava, ma voi cosa fatene? Ah Matteo, ti senti guai, io ti sempre quello cose che tu prendi, tu sempre buon pende, fa la puntina e mezzo a quella mischia senti quello che farà più forte. Ma K, vediamo Falchetto come sta sparando adesso. Vede un po', dai, Roger. Ma cacchio, questa è una radio. Questa è una radio, Antù, mannaggia a te. Me l'hai fatto prendere un colpo poco fa quando ti sentivo tutto bello vattato lì. Vedi un pochino Gianni, se senti differenza tra la radio che aveva poco fa e questa. Questa è naturale, è una radio naturale, è bella. Secondo me è questa che dovrebbe tenere lui sempre, perché è quella che gli dà la voce più naturale, e questo sicuramente è il Proxens. Ok, dammi 2 secondi che cambio apparato, vediamo un pochino se riesco a starti dietro con l'altro apparato, perché poco fa credevo veramente di avere problemi io. Cambia apparato, vediamo un po' dai. Cambia apparato, vediamo un po' dai. Cambia. Tizio Farocchio, bisogna vedere i furi come fa. Amplificato che aiuta sempre un po'. Lo sai cosa, stavo parlando con Domenico, ma mi sa che Domenico mi ha confermato che è lungo distanza, non serve a un'accia. Ah, è quello che tu dici. Capito. Questo è più adattabile, il Proxel è più adattabile perché mi sente più bene in lontananza. Col Proxel? Esatto, ma questo adesso modulando, il Proxel. LMV+5? Oh, dice mi faceva troppo basso di radio, ma basso però . Ma l'ha regolato male, adesso che l'ha regolato così, voglio vedere se ne sei. Non lo so. Però il problema sta che non posso stare io con il microfono a tavola a portarmelo vicino a mano e ci vuole un punto d'appoggio, c'è poco da notare. Ah, ma è... questi da tavola. Non mi piacciono molto, mi piacciono più quelli manuali, palmari, perché me li posso allungare, me li posso fare, non devo stare in piedi, ho posato apposta per modulare, e con questo più palmare puoi fare il tutto. Brecco! Va avanti, Brecco. Ecco, adesso sono con il 48. Beh, come va la modulazione? Una bomba, una bomba, una bomba, è come ti, come ho fatto la fotografia della tua, tra questo apparecchio e l'altro. Questa è una bella modulazione, mi devi perdonare se ti dico la verità, però tu qui di radio stai uscendo che sei a 100, poco fa eri a 20. Cappa di noce, no, lo lascio questo, dai. Questo è, diciamo che ci vuole un filo morbido, morbido, lo posso avvicinare, staccare come voglio e la modulazione sarà molto meglio dell'altro, dai. Cappa, per una cosa ti voglio dire, Antonio. Dimmi. E oltre a quello, le cose di questo smitter c'è scritto segnale, non va, quindi abbassiamo le voci per cortesia, se no ti ha detto lo smitter. Sto passando, non abbassa voce, non è che sto abbassando, parlando voce alta, no? Buonasera! E chi è? E chi è? E dove sei? Ma è bello! Antonio, da Senoli dice che sta modulando, riprendilo tutto. Da Senoli. Di Senoli è questo ragazzo qui. E chi è Senoli? Un commento di Luca. E cappa. E Lucchetto di Senoli, vieni pure. Che è questo due? Lucrezia. Antonio mi chiamo io. Antonio diciamo. Antonio. E ucciso. Tony Gau. Sono la cagau. Guarda, tutto puoi fare, parlare in sardo, in sassarese, che con la tua modulazione qui non puoi mentire. Vabbè, ma sempre mi trovo quando e come voglio, capo. Bene, bene, ti chiamato l'alimentatore Giuseppe? No, ancora no, ne ho uno di fortuna qui a casa che sta facendo compagnia all'altro. E tu? E tu? Sono i problemi di alimentazione. Come? Non ti ho sentito. Dico, tu non avevi problemi di alimentazione. Positivo, eh? Allora, c'è sempre quel famoso alimentatore là. Con la KP12. Bene, bene. Quando vuoi, come sapere, ci mettiamo d'accordo. Non problemi. Io sono due anni, tre anni. Non so. Quante ne ci sono già? Ho ripreso 3 anni, sono 4 anni, no? Più? E più? 5 anni. Io ci sono sino 7. E io ho ripreso insieme a voi, mi chiamo, tu mi volevi con Claudio, no, non lo so. No, io ce l'avevo molto prima, qui. Ce l'avevamo da molto prima, io sono stato il primo che ha piazzato l'antenna, sul set e sulla macchina. Tutti gli altri mi hanno seguito a rotta di colpo. Ma vabbè, comunque sono sempre modulato, ancora diventato lì. E non solo, mi pilota anche il Kingwood, Giuseppe. Cioè, in questo momento non mai un buon siede. Anche il Kingwood ha bisogno di un ottimo alimentatore. Un capo. Andare, dai, andare. Sono crevato, crepato, crepato. Ma parti, quando parti l'importante, parti male, è un pezzo di discorso, non riesco a sentirlo. E io in mezzo a tutto questo ambaradam ho capito solo, Giuseppe, quando vuoi ci mettiamo d'accordo e l'alimentatore, lì sono riuscito ad arrivarci. E quanti anni è questo alimentatore lui? Può essere. Confermi già. Faccia portate, Giuseppe. Tutto, boh, non lo so, deve essere che c'è l'imbecille che abita vicino Antonio che sta mettendo a portare. Ma non penso che mi passi a Giuseppe. Allora Giuseppe mi sta autoascoltando un altro baracchino. Se non esce, me ne accorgo. Tu hai qualche problema, fai lo square, ci troppo chiuso, boh. Comunque quella alimentatore lì è da. Aspetta, dove vai? Cazzo assurdo. Aspetta. Qua da 12 ampere 15 di picco massimo. Sì, sì, c'è importante, dai, c'è importante, adesso la sto sentendo in pieno anch'io. Ecco che cos'era quella mala sorte lì. Ascoltate bene, questo qui che divertimento che ha. Ma non posso andare via così forte, no? Giuseppe, se mi passa è stacco tutto. No, non ti sta passando, però adesso la sto sentendo bene. Però poco fa, come partivi con la portante, si sentiva la voce come gracchiare un pochino e poi partiva nitida. No, già ne ha capito tutto, già confermi? Che non ha capito altri braccio. Alfa, dai, lui ci rompe il coglione questo qua, me ha detto che fa così, è solo mongola, che gusto ci prende a rompere le balle, boh, poi lo risolvo, veramente va, non ha senso, e poi anche Masso, cosa c'è per rompere i coglioni, scusate le parole, ma non ci vuole, dai, facciamo una cosa, ce ne andiamo sul 41, ossia che entri anche Massimiliano, perché l'altro giorno dice che ci stava cercando, però lui sui canali Alfa non ci può andare. Non c'è problema, vai al 41, vai Gianni e tutti gli altri, Antonio, vai al 41. Stava via. Stacca per il capo, terza di piscista. Adesso ho capito al 100%. Allora giocare, pigliatela in culo, vai. Non si è fregato, si è. Thank you.